Benvenute e benvenuti a Radio Africa, trasmissione del sabato pomeriggio dedicato alle sonorità del continente africano. Africa, 87.9 la modulazione di frequenza, 06.49 17.50 il contatto telefonico. Radio Africa che vi terrà compagnia fino alle 18. E se non lo sapete, ve lo diciamo noi, Radio Onda Rossa non fa pubblicità, quindi se volete sostenere questa radio, il conto corrente postale è 61 80 40 01, intestato alla cooperativa culturale Laboratorio 2001, Via dei Volsci 56, Roma. O potete passare nei nostri studios di Via dei Volsci a lasciare un vostro contributo, o in alternativa sul nostro sito potete trovare tutte le modalità per sostenere Radio Onda Rossa. O ancora potete partecipare alle nostre iniziative di sostegno alla radio, iniziative appunto che ci sono state per esempio ieri all'Alexis e che ci saranno anche a novembre. Radio Africa è una trasmissione musicale appunto che è dedicata alle sonorità del continente africano e alla sua diaspora, ma si occupa anche di quello che succede in Africa, e quindi torneremo ancora sulla rivolta del Burkina Faso. Avremo in studio Marinella Correggia, che è una esperta del Burkina Faso, ha scritto dei libri su Thomas Sankara e collabora con Il Manifesto. Con lei parleremo appunto di quello che sta accadendo in Burkina Faso. Africa wants to be free, like a lion in the jungle. Africa wants to be free, like a bird in the sky. If you don't know, you don't know, you got to know. Oh, oh. Mama Africa is not free. Oh, free. Oh, free. Mama Africa wants to be free. E vi ricordiamo che poi c'è anche l'iniziativa quest'oggi del presidio al CIE di Ponte Galeria, appuntamento era alle 14 alla stazione Ostiense e alle 15 davanti alle mura del CIE, la stazione ferroviaria Fiera di Roma, per dire basta alle deportazioni, basta alle retate, no al lager, no ai CIE. Quindi se qualche compagno che ha partecipato a questa iniziativa insomma ci chiama, così possiamo anche raccontare quello che è successo al CIE di Ponte Galeria. If you don't know, if you don't, you got to know. Oh, oh. Mama Africa is not free. Oh, free. Oh, free. Mama Africa. Ma cominciamo con le nostre selezioni. Lui ve lo stiamo proponendo da un po' di tempo perché è veramente un bell'album, è Orlando Julius insieme agli Heliocentrics. Orlando Julius è un sassofonista nigeriano ed è uno dei maggiori esponenti dell'Highlife e dell'Afrobeat nigeriano. Jaide Afro è il suo album, e il brano che vi voglio far ascoltare è questo Love T. Negbolu. Orlando Julius, gli Heliocentric, questo gruppo fusion jazz londinese. Ebbene, un album uscito all'inizio di settembre, veramente tutto da ascoltare. 16:38, questa è Radio Africa e voi siete sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. Loro si chiamano i Kula Lobitos era il primo gruppo di Fela Kuti. Loro se ne andarono a Los Angeles nel 1969, poi Fela ritornò dopo questa esperienza, cambiò il nome del gruppo, ma queste registrazioni appunto risalgono al periodo che va dal 64 al 68 e le session che fecero intorno al 1969 a Los Angeles. E allora il brano è Funky Horns. Kula Lobitos, il gruppo di Fela Kuti. E siamo ancora prima dell'Afrobeat, e ancora prima dell'Afrobeat c'è anche un altro grande musicista. Lui viene dal Ghana, si chiama Ebo Taylor, ha più di 70 anni eppure è ancora in splendida forma. Il brano si chiama Nganga e lui è Ebo Taylor. noio, e si chiama coma, e si caffè mi inze, come ti sei babaca, nel sogno più bello. E si ganga, e si fazzi noio, e si chiama coma, e si caffè mi inze, come ti sei babaca, nel sogno più bello. Nana na ho du me fola o se ye 16.51 Radio Onda Rossa 87.9 la modulazione di frequenza 06.49.17.50 il contatto telefonico, questa è Radio Africa. Allora, come vi avevamo preannunciato, abbiamo qui Marinella, correggio, vedi un po' se il microfono ci assiste. Allora, mi sembra che si senta bene. E allora, quello che con lei volevamo affrontare era il discorso appunto sul Burkina Faso, perché la situazione si sta evolvendo, c'è stata una pressione da parte della cosiddetta troica, come viene definita anche lì, e lì si parla dell'Unione Africana, della CEDEAO e dell'ONU, pressione sul governo di transizione per trovare appunto una soluzione che porti a questa transizione attraverso un governo civile. Zida ha visto, che l'uomo forte dell'esercito in questo momento ha visto il rappresentante degli Stati Uniti per l'Africa, Williams, ha avuto un incontro di circa 45 minuti, ma la tensione nelle strade ancora rimane, la gente, questa soluzione militare insomma non gli piace. Vediamo un po' se Marinella cosa ne pensi insomma di questa situazione. Ecco, come al solito possiamo dire che anche sentendo i protagonisti, i burkinabè, perché non dobbiamo mai dimenticare che dobbiamo sentire loro prima di tutto, ecco, possiamo dire che il bicchiere come al solito è mezzo pieno e mezzo vuoto, perché il fatto che certo Zida abbia incontrato, non so se il primo politico internazionale che Zida ha incontrato, se è uno statunitense, è un po' il contrario di quello che fece Sankara, il quale congedò in fretta un rappresentante degli Stati Uniti quando si permise negli anni della rivoluzione di suggerire al Burkina Faso di non interessarsi del Nicaragua, e Sankara lo congedò in modo abbastanza secco. Ecco, se adesso Zida certo ha incontrato un rappresentante degli Stati Uniti, non si capisce bene a che titolo possiamo capire un interesse dell'ONU, ma gli Stati Uniti appunto hanno sempre troppo lo zampino in queste cose, e certo l'ingerenza esterna è da temere. E il bicchiere mezzo pieno perché è stata una rivoluzione di popolo, non possiamo dire che sia una situazione come quella che poi si è sviluppata in Libia o in Siria, è più qualcosa che si può avvicinare all'Egitto e alla Tunisia, che lì però abbiamo visto che poi è andata in un certo modo. Allora, aspetta, mi sembra che ci hanno comunicato che non si sente bene il microfono. Prova a vedere se con quell'altro microfono perché sì, perché si, no, no, no, no, tanto noi qua siamo in diretta. Prova un attimo. Si sente meglio? Qui si dovrebbe sentire meglio. Vediamo un po', prova un po', ecco. Ecco, ecco, adesso sì, ci sei, perfetto. Sì, allora. Quindi niente, dicevamo che appunto è stata una rivoluzione di popolo e si spera che continui a essere il popolo a guidare le cose, a non farsela scippare. È vero che una parte almeno dell'opposizione ha giustificato questa chiamata in causa dell'esercito con il fatto che in una situazione caotica ci poteva essere, tutto poteva degenerare, ed è anche vero che non dobbiamo, insomma, anche Sankara era un militare, però un militare del tutto speciale. Zida non è ovviamente Sankara, anzi non era lontano dal potere di Compaoré, e quindi dovremmo capire il più possibile chi sostenere a livello locale, per quanto possibile, anche chiedendo fortemente che ad esempio la Francia lasci lavorare la giustizia. C'è una campagna internazionale di denuncia di Compaoré che chiede ancora ragione di come andarono le cose con l'assassinio di Sankara e col colpo di Stato nell'87, e la cosa non è andata avanti per le ingerenze, appunto la Francia non ha certo aiutato in questo senso, anzi Compaoré poi è stato il mediatore di guerra per conto quasi della Francia in Africa. Quindi noi dovremmo capire se possiamo, e sentendo il più possibile i burkinabè, chi nell'ambito di chi è sceso in piazza si richiama di più agli ideali sankaristi, perché questa è una garanzia obiettivamente. Certo, una cosa a proposito di Zida era il responsabile, insomma il capo del reggimento di sicurezza presidenziale, quindi diciamo una parte dell'esercito che era fortemente armata e che era molto vicino a Compaoré. C'è stata poi quella lettera di Hollande a Compaoré prima, diciamo così, che Compaoré se ne andasse, in cui appunto lo dissuadeva dal cambiare la Costituzione, ma contemporaneamente gli dava credito come un rappresentante appunto degli interessi, dell'equilibrio e della pace nell'area, cosa insomma che è tutta da verificare. Sembrerebbe quindi che ci sia una sorta di concertazione per cercare di riportare quella che è stata effettivamente una rivolta popolare verso una transizione guidata, insomma questo sembra l'impressione a guardarla da qui. Certo, anche così il capo dell'opposizione, quello che viene più citato, questo Diabré, Zéphirin Diabré, non è certo un rivoluzionario alla Sankara, e però alcune persone lì sul posto dicono che sì, ci vuole tempo, no? Probabilmente ci vuole tempo perché una vera opposizione rivoluzionaria riesca ad affermarsi, figuriamoci poi alle elezioni dove occorrono mezzi, e quindi forse ecco, a parte il passaggio di poteri dal militare al civile, che si spera sia che è auspicabile al più presto, ci sarà poi il nodo cruciale delle elezioni. Pensiamo come sono andate le elezioni in Egitto. In Egitto, con tutta questa rivoluzione anche di sinistra, di popolo, poi alla fine hanno vinto i fratelli musulmani, in parte perché la popolazione non era, diciamo, tra virgolette, alfabetizzata alla politica, e questo era anche quello che Sankara non riuscì a fare in quei 4 anni, e in parte per l'afflusso di denaro a tutto spiano, quindi alle elezioni puoi comprare le persone che sono, certo, più povere e meno politicizzate. Pensare che comunque i 27 anni di potere di Compaoré non sono stati indolore, cioè c'è stata una repressione molto molto forte, e quindi l'opposizione a Compaoré, l'opposizione sankarista, anche in qualche maniera è stata di fatto, non dico eliminata, però insomma ha ricevuto anche personaggi, e mi viene in mente Norbert Zongo, il giornalista che poi è stato ucciso dalla cricca di Compaoré, anche personaggi appunto che semplicemente ponevano dei problemi dal punto di vista dell'immagine, sono stati eliminati. Quindi questa repressione che durava da 27 anni all'interno di un paese che comunque effettivamente ha dei problemi di sviluppo, dove comunque le persone sono povere, c'è un processo di alfabetizzazione che si è stoppato, effettivamente insomma ha desertificato un po', no, il quadro politico e sociale. Mi diceva, sì, a questo proposito un burkinabè, Alassane burkinabè, che vive a Napoli, che in occasione del 20° anniversario della colpo di Stato, quindi della morte di Sankara il 15 ottobre 2007, lui era giù e sulla tomba di Sankara e tra le persone che lo avvicinarono dopo appunto discorsi c'era un ragazzo di un remoto villaggio il quale piangendo gli disse: adesso ho capito tante cose e non danzerò mai più per Compaoré. Ecco, però questo è un processo che richiede tempo. La rivoluzione ebbe solo 4 anni a sua disposizione. E quindi ecco, per questo, se riuscissimo in qualche modo, per il pochissimo che possiamo fare, a individuare degli attori importanti e significativi, davvero rivoluzionari in Burkina Faso, potremmo forse anche agire nei confronti dei nostri pessimi governi e quindi insomma sostenere le ragioni di chi non vuole un'ingerenza negativa. Mi viene in mente che per esempio con Paorini anche tanto tempo fa è stato accolto qua in Italia da rappresentanti del Ministero degli Esteri come un vero e proprio leader dell'Africa, quando in realtà dei fatti è stato un usurpatore, poiché è andato al potere, appunto, l'avevi ricordato, con un colpo di Stato. E poi c'è anche il discorso che forse quello che sta succedendo in Burkina Faso potrebbe anche innestare una sorta di processo domino rispetto anche a altri dinosauri della Françafrique, e non solo della Françafrique, mi viene in mente Mugabe, Nyerere, che stanno ancora lì al potere da quasi 30 anni. Denis Sassou Nguesso più che dire. Allora sì, alcuni hanno scritto anche che questo potrebbe essere l'inizio della primavera africana, a parte che di primavera arabe si è parlato tanto e molto spesso sono stati più autunni, no? O sono sfociati in autunni o in inverni. Questo è tutto da vedere. Va detto che in Burkina Faso, come anche in Senegal, la cosa non è cominciata ieri, già nel 2011, ma nella indifferenza dei più c'erano state delle sollevazioni, un po' meno forse in altri paesi africani, dove magari l'esercito è, mentre in Burkina è abbastanza diviso probabilmente, e la parte più vicina al presidente è quella che era più armata e aveva più privilegi, il resto no, altrove magari l'esercito è più compatto, più forte, più schierato con i presidenti di turno. È un po' tutto da vedere. Sì, ci sono degli equilibri poi anche internazionali che in qualche maniera sono stati messi un po' in discussione, nel senso che probabilmente la Francia sta cercando all'interno della definizione della transizione qualche riferimento, perché naturalmente il ruolo del Burkina Faso, per quanto sia un paese povero di risorse, comunque dal punto di vista del ruolo che ha svolto fino adesso con Paoré nelle varie crisi, è un ruolo centrale, fondamentale, molto importante, e soprattutto anche perché con Paoré stava all'interno di processi diciamo così di neocolonizzazione da parte dei francesi in tutta l'area, e quindi probabilmente questo tassello che sta mancando alla Francia insomma è foriero anche di ingerenze. Sicuramente il Burkina Faso certo è un paese povero e enclavé, come si dice in Francia, senza sbocco al mare, ma è stato un paese molto importante, ha giocato un ruolo nefasto purtroppo per via di Compaoré in tante crisi, e poi nel traffico di armi, di diamanti, stesso dei diamanti sporchi, e quindi una piattaforma, un crocevia che sicuramente la Francia non si può permettere. Non si può permettere di perdere. Sì, anche nel caso appunto del colpo di Stato che poi portò alla morte di Sankara, ormai è stato acclarato che c'erano dei collegamenti con Taylor, Charles Taylor, con tutto quello che stava succedendo in Liberia, e quindi insomma una sorta di complotto internazionale che in qualche maniera vedeva appunto Compaoré come uno degli attori di questo complotto. Allora, io ci prenderemo una pausa musicale e poi ricontinuiamo a parlare del Burkina Faso. Samba! Thank you. baya jurutike, samba ye baya jurutike, samba ma baya jurutike. Samba ye baya jurutike, samba ye baya jurutike, samba ma baya jurutike, so ye ye baya juru la bla. Allora, Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza 06 49 17 50, il contatto telefonico. Questa è Radio Africa. Siamo qui con Marinella Correggia, collaboratrice del Manifesto, conoscitrice del Burkina Faso, e stiamo parlando appunto stiamo cercando un po' di capire quello che sta succedendo in Burkina Faso, e appunto parlavamo di questa di come da qui si può aiutare la rivoluzione burkinabè, anche se non stanno emergendo dei soggetti che hanno un progetto politico ben chiaro, anche se poi il riferimento che può essere al pensiero e di Thomas Sankara in qualche modo emerge, ma non in maniera così chiara, e poi capire anche questo processo di transizione dove va a finire, nel senso che lo sbocco elettorale potrebbe essere semplicemente una modalità per normalizzare il quadro politico, non è detto appunto che il processo elettorale sia per forza uno sbocco, e capire anche che cosa accade all'interno della società burkinabè, una società che è molto giovane, la gran parte degli abitanti del Burkina Faso sono giovani, e c'è anche una certa borghesia urbana, sia pur diciamo così minima, che però preme per avere delle libertà politiche dopo 27 anni di dittatura di Compaoré, e poi ci sono le campagne che appunto da qui purtroppo è difficile capire che cosa succede nel Burkina profondo, diciamo così. Sì, così possiamo anche rifarci al fatto che negli anni, in questi lunghissimi anni di Compaoré, contrassegnati, come hai detto, da repressione e anche da tentativi di acquisto di chi invece cercava di fare una politica diversa, no? Cioè, quindi ci si sono creati, sono nati e poi sono morti diversi partiti che si richiamavano appunto a Thomas Sankara, che per me rimane una garanzia in questo senso come riferimento ideale anche pratico, e questo poi si interseca, si intreccia con altre parti dell'opposizione, alcune delle quali sono anche veramente nate l'altro ieri, questi partiti che adesso sembrano guidare la rivoluzione sono magari nati un anno fa da transfughi del partito di Compaoré. C'è anche da dire questo, ecco, come è successo altre volte, c'è poi chi magari non fa concretamente la rivolta, no, nelle strade, perché poi appunto i burkinabesi sono mobilitati molto, e non è detto che questi partiti dell'opposizione l'abbiano fatto davvero, però poi tendono magari a mettere il cappello. Pensiamo a quello che è successo in Egitto, dove i Fratelli Musulmani non avevano partecipato alla rivolta del gennaio 2011, eppure poi sono riusciti addirittura a vincere le elezioni, prima a mettere il cappello sulla rivoluzione e poi a vincere le elezioni grazie ai soldi. E qui veniamo al secondo punto, ecco, perché da un lato c'è questa necessità di far passare il potere dai militari ai civili, e come dicevi tu prima ci sarà probabilmente un governo tecnocratico e con moltissime ingerenze e condizionamenti internazionali, e poi quando si va a votare che succede? Quali forze si scateneranno? E quindi ci sono delle chance che effettivamente dalle elezioni emerga un potere che risponde alle necessità e anche alle aspirazioni del Burkina, oppure come al solito ci saranno gli elementi esterni che prevalgono? Sì. Allora, un attimo solo. Allora, stavamo appunto parlando di questo aspetto, però abbiamo una telefonata. Adesso vediamo se è una telefonata che ci racconta quello che sta succedendo in questo momento per quanto riguarda la mobilitazione. Pronto? Allora, ecco qui una telefonata appunto che ci racconta quello che stava succedendo per quanto riguarda l'iniziativa e il presidio al CIE di Ponte Galeria, giusto? Sì, ciao, allora, buonasera ciao a tutte e tutti. In realtà il presidio è appena concluso perché, come avevamo annunciato, comunque si trattava di una manifestazione di 2 ore, anche per non accavallarsi con altri appuntamenti in città, ma anche e soprattutto perché comunque la tensione è piuttosto alta e trovandosi nel vuoto più totale, con ovviamente con un dispiegamento delle forze dell'ordine piuttosto ingente, si è pensato che, finita la comunicazione con le persone che sono rinchiuse dentro il CIE, rinnovata la solidarietà e la voglia di lottare insieme, ovviamente si è pensato di andare via e terminare il presidio. La risposta da dentro è stata davvero forte, sia gli uomini che le donne hanno risposto vivamente con le grida, ed è la cosa più bella di un presidio davanti a un luogo così infame, ovvero il fatto che le nostre grida con quelle delle persone recluse si intrecciano e comunque danno coraggio, danno forza. La rappresaglia è stata molto forte da parte sia dell'amministrazione del centro sia da parte delle forze dell'ordine, che questa volta hanno deciso chiudere tutti dentro le celle, non permettendo alcuna forma di incontro che potesse così costruire una protesta, diciamo, collegata a quella all'esterno. E diciamo che il presidio si è lasciato con la voglia di tornare di nuovo davanti quelle mura, ormai sembra un appuntamento che ogni mese si rinnova, e sicuramente ci sarà modo di conoscere sempre più approfonditamente quello che succede dentro il CIE di Ponte Galeria, proprio perché le comunicazioni ci sono e c'è una forte fiducia sia fra chi è all'esterno e chi è all'interno, quindi speriamo che sia forza per portare avanti la lotta. Io vi ringrazio, auguro una buona lotta a tutte e tutti. Grazie, ciao. Ciao. Ciao. E allora appunto abbiamo sentito questa corrispondenza dal CIE, che poi appunto questo aspetto, Marinella, non è poi tanto lontano da quello che stavamo dicendo, perché è un'altra faccia, diciamo così, dell'Africa, la faccia che noi vediamo direttamente, perché i migranti che vengono qui e anche la risposta repressiva, insomma, che diamo a questa pressione demografica. Sì, ricordiamo anche che molti dei migranti che arrivano è grazie alle guerre che facciamo, che i nostri paesi conducono. Pensiamo alla Libia, no? Dove vivevano credo 1,5 milioni di lavoratori subsahariani, e questi da qualche parte devono andare. La Libia è in liquefazione, quindi non possono certo continuare a lavorare lì, oltre al fatto che appunto ci fu la caccia al nero dopo la vittoria degli alleati locali della NATO. E volevo dire qualcosa, ecco, a proposito sempre dei migranti. In Italia c'è una grande comunità di Burkinabè e penso che loro potrebbero essere il ponte tra noi e i nostri eventuali referenti locali. C'è per esempio un progetto che andrebbe valorizzato, anzi ce ne sono due. Uno è i Burkinabè di Bergamo sostengono con il loro denaro dei progetti di sviluppo nel loro paese, compreso costruzioni con la bioedilizia, con materiali locali e tecniche locali, è qualcosa da tenere in grande considerazione, così come in Puglia l'esperienza di Casa Sankara di riscatto dei lavoratori africani sfruttati come schiavi nella raccolta del pomodoro. Quindi ecco, forse le comunità africane possono davvero essere il nostro l'anello di congiunzione, il tramite tra noi e i rivoluzionari burkinabè. Sì, la comunità burkinabè della diaspora si sta muovendo, perché per esempio proprio oggi è stata indetta una manifestazione a Parigi per denunciare proprio l'ingerenza straniera che cerca di recuperare come nel processo democratico, invece di fermare attraverso questo processo che si dice appunto elettorale il processo rivoluzionario burkinabè. Una manifestazione che poi fa le altre cose davanti all'ambasciata francese, l'ambasciata burkinabè a Parigi, che vede anche l'adesione dei partiti della sinistra francese, quindi in qualche modo c'è un collegamento. E a Milano lunedì credo ci sarà una manifestazione davanti all'ambasciata di Francia, anche questa indetta da africani che vivono a Milano, quindi Sì, si muove qualcosa, nel senso che appunto come dicevamo prima, la rivoluzione burkinabè può essere una rivoluzione, un movimento che comunque dà un esempio, che può portare a un processo di emulazione positivo rispetto a tante situazioni, come dire, incancrenite in un'Africa che comunque cambia rapidamente, un'Africa che ha un tasso di crescita del PIL, ammesso che questo riferimento al PIL possa avere un senso, però insomma una ricchezza che cresce a un ritmo del 6,5% annuo, una classe media che si consolida, che consuma, che ha dei gusti, come dire, ormai globalizzati, una pressione da parte di masse giovanili che vogliono vivere in una certa maniera differente, e questo l'abbiamo visto anche per esempio in Senegal, dove comunque c'erano delle possibilità di espressione democratica. Ecco, lì dove ci sono queste possibilità si sente questa nuova Africa che preme, e la rivolta burkinabè è un aspetto di questo, se mi sembra di capire. Lo è, e potrà esserlo ancora di più se, tra l'altro, questo è una cosa su cui insisto un po', i rivoluzionari riusciranno ad avere anche i giusti agganci internazionali. Penso ad esempio alla potenza che avrebbe un asse Africa-America Latina, un asse alternativo come quello che tra l'altro era prospettato per esempio nella bella lettera che il presidente Hugo Chavez mandò all'Africa poco prima di morire, e quindi in questo senso, ecco, forse paesi più progressisti dell'America Latina potrebbero essere davvero un'ancora importante per i rivoluzionari. Io li chiamo così, i rivoluzionari del Burkina, non so come, in che altro modo. È una definizione che comunque si attaglia a quello che è successo, perché poi comunque di fatto una rivolta popolare c'è stata, una rivolta popolare che è ancora magmatica, che ancora facciamo un po' di difficoltà a decifrare, dalla quale ancora non sono usciti dei partiti politici, delle organizzazioni ben definite, ma che comunque sicuramente ha avuto il merito di cacciare il dittatore e ha il merito di fare in questo momento una pressione popolare su una transizione guidata dai militari, che non piace a molti che sono scesi in piazza, e quindi insomma qualche cosa che sicuramente si sta muovendo in un paese che sembrava ormai assopito sotto la dittatura di Compaoré. Ecco, dal punto di vista linguistico è interessante questo uso del termine dittatore, perché formalmente ti possono dire che quella era una democrazia, nel senso che si andava a votare, ma è proprio così. Molto spesso le democrazie non sono vere democrazie e sono dittature, o perché appunto instaurano dei meccanismi all'interno del paese per cui non c'è una vera volontà popolare che è espressa, ma tu ti compri i voti o comunque approfitti dell'ignoranza e dell'ignoranza politica, intendo, della popolazione. E poi ci sono le dittature internazionali, come appunto per esempio i paesi della NATO, che dettano legge a casa degli altri dove nessuno li ha votati, e io queste le chiamo vere dittature, soprattutto quando poi vanno a bombardare, quando esportano la democrazia, quando esportano la loro democrazia a suon di bombe, e quindi fecero un deserto e lo chiamarono democrazia. Quindi è interessante questo uso. Dobbiamo anche fare, probabilmente bisogna fare un cambiamento anche nel linguaggio, no? E quindi fare attenzione ai termini che si usano. Per questo io, anche dicendo rivoluzionari, ho qualche esitazione, perché poi sembrano tutti rivoluzionari, anche i nazisti dell'Ucraina sono chiamati rivoluzionari, oppure ribelli, poi c'è chi definiva i razzisti libici, rivoltosi razzisti libici aiutati dalla NATO, li definiva partigiani. E quindi dovremmo proprio riprendere tutto il linguaggio, ridefinirlo in qualche modo. Sì, anche perché poi insomma, come dire, il potere dispiega una sorta di neolingua, per cui che un po' ci ricorda insomma Orwell di 1984, in cui quello che sembra evidente e invece viene rinominato in un'altra maniera e assume un altro senso, mentre invece bisognerebbe un po' destrutturare questo processo, perché è assolutamente insidioso e quindi non ci fa capire insomma quello che effettivamente poi accade nella realtà. Allora, penso che insomma il tempo sta finendo, Marinella ha altri impegni, e allora io intanto ti ringrazio per la tua visita, insomma, così siamo riusciti un po' ad approfondire questi aspetti che riguardano la, chiamiamola, rivoluzione burkinabè, perché no? Grazie alla trasmissione. Figurati, e quindi insomma ci terremo ancora in contatto, e intanto vi faccio ascoltare un brano che viene proprio dal Burkina Faso. Il brano è di un gruppo che suonava intorno agli anni 70, che si chiamavano Le Voodoo du Flamboyant. Radio Onda Rossa, sono le 17.25, sintonizzate e sintonizzate sugli 87.9 della modulazione di frequenza, questa è Radio Africa. Allora, appunto, abbiamo parlato di quello che sta succedendo in Burkina Faso con Marinella Correggia, collaboratrice del Manifesto, ha scritto dei libri su Thomas Sankara, conoscitrice insomma del Burkina Faso. E abbiamo cercato insomma di capire un po' quali sono i processi in corso, poi naturalmente ci torneremo perché è un processo molto interessante che sta cambiando degli equilibri, che ci dà anche un'immagine di un'Africa diversa, un'Africa che appunto che si muove, che si ribella, insomma, che non è solamente vittima di guerre, carestie e fame, come spesso la nostra stampa, i nostri mezzi di informazione mainstream ci vogliono raccontare. Loro vengono proprio da quello che un tempo si chiamava l'Alto Volta, adesso si chiama Burkina Faso, si chiamano Levadou du Flamboyant. Allora, rimaniamo ancora naturalmente in ambito africano, ma spostiamoci per quanto riguarda la nostra selezione musicale e ce ne andiamo in Costa d'Avorio, dove c'è un personaggio molto interessante, Ernesto Gheghe è uno dei musicisti più famosi della Costa d'Avorio. Il brano vi voglio far ascoltare è Ano Wa. Ernesto Gheghe, che poi è morto nel 1983, lui aveva cominciato a suonare a 15 anni, era diventato un chitarrista, aveva già un suo gruppo nel 1962, poi nel 68 se n'è andato a Parigi dove a studiare, dove ha incontrato anche Manu Dibango. Tornato poi in Costa d'Avorio nel 1972, formò questo gruppo che si chiamavano Les Zigbitien, e appunto anche lo stile chiamato Zigbiti, che è uno stile basato su un ritmo musicale betè e accompagnato con gli ritmi congolesi, e che faceva ballare parecchio ai tempi. E quindi e lui poi ha registrato il suo primo e solo album nel 1977, album chiamato Zibotè. Ernesto Diede è Costa d'Avorio. E allora rimaniamoci in Costa d'Avorio. Loro sono un altro gruppo che appunto fa parte del periodo in cui la Costa d'Avorio si produceva molta musica, anche perché la Costa d'Avorio era il fiore all'occhiello della Françafrique. Il prezzo del cacao, che la Costa d'Avorio è il maggior produttore di cacao, saliva, si costruivano i grattacieli ad Abidjan, che era un punto di attrazione per molti africani e molti musicisti, e quindi insomma c'era una certa vitalità. E il brano che ci ascoltiamo è un brano di un gruppo che si chiama i Bacas, e Daouda è il brano. sai, maintenant on peut rouler. Ok patron, maintenant on peut pomper. Rouler, rouler, baka rouler. Rouler, rouler, baka rouler. E allora questo brano che si di Daouda che si chiamano Bacas, si chiama Bacas, e Bacas sono dei mini car di trasporto in comune che si usano ad Abidjan e che appunto servono ad assicurare i trasporti interurbani. Immaginiamo insomma Abidjan come una città piuttosto caotica. 17:37, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, 87.9 la modulazione di frequenza, 06 49 17 50 il contatto telefonico. Questa è Radio Africa. E della Costa d'Avorio ce ne andiamo in Benin, dove incontriamo le Tout Puissant Orchestre Polyrythmo de Cotonou, è sostanzialmente uno dei gruppi musicali dell'Africa centrale più famosi di tutti i tempi. Il brano si chiama Nete Fashé Pa. Nunca si chiama Compare Youssouf, il brano è Damba Kale, brano che è stato registrato ad Abidjan nel 79. Compare Youssouf è del Burkina Faso, e Damba Kale è cantata nella lingua Haoussa, che è una lingua tipica del nord della Nigeria, e appunto denuncia il macismo dilagante in Africa rispetto alle donne. We'll be right back. E loro sono l'orchestra Super Borgu de Paracu, parliamo sempre del Benin, ma della parte nord che per molto tempo è rimasta un po', come dire, quasi sconosciuta per quanto riguarda la produzione musicale, invece insomma è stata riscoperta questa orchestra che si chiama appunto l'orchestra Super Borgu de Paracu, che anzi con il loro Bariba Sound intorno al 1976 faceva anche concorrenza con la ben più famosa orchestra che ci siamo ascoltati prima e che era la Tupuisan Orchestra de Cotonou, che era Politmo e che era appunto l'orchestra musicale più conosciuta del Benin, ma anche quasi di tutta l'Africa intorno a in quel periodo. E invece con questo genere musicale che un po' raccoglieva dalle radici della musicali del Benin del Nord, ma anche un po' di afrobeat, un po' di folklore dandy, un po' di pachanga, insomma un po' di Kavasha, mettevano insieme un soul, un che era molto molto intrigante, molto interessante e trascinante. L'orchestra Super Borgu de Paracu. 17:50, ci stiamo ancora 10 minuti prima di chiudere e dare spazio poi a Soul Peanuts e il suo jazz. Andiamo ancora avanti e rimaniamo nel Benin. Loro si chiamano Pico B Band d'Abomey ed è anche loro venivano da Cotonou, una band molto interessante che questo album è stato tratto da un festival del 1965 proprio lì a Cotonou, e questo ci dà anche un'idea di come fosse effervescente la scena beninoise in quel periodo. E allora Pico B Band d'Abomey. Jacoby Band Dabo Meyi Benen, band che è stata formata nel 1953, beh, queste chitarre graffianti con il tappeto ritmo sontuoso, un tappeto ritmico sontuoso, insomma fanno una certa impressione. E noi in questo nostro viaggio settimanale attraverso la musica africana ci viriamo verso il Kenya. Loro si chiamano gli Slima Lee e The Famous Odi Boys. Siamo nel 1976, il brano è Batoto Nyara e questo è Afrofunk Swahili. Odi Boys, Batoto Nyara, questo era il brano. 17:58, sempre l'ascolto di Radio Onda Rossa, 87.9 la modulazione di frequenza, 06 49 17 50 il contatto telefonico, questa è Radio Africa ancora per due minuti e vi voglio lasciare in compagnia di un brano di Baloji. Baloji viene dal Congo ma è cresciuto in Belgio, ha un genere musicale che fonde afrofunk, hip hop, folk, e abbiamo avuto la fortuna di vedere un suo concerto qui a Roma il 30 di ottobre all'interno di Roma Europa Festival, un bellissimo concerto molto caldo con delle sonorità congolesi che hanno fatto ballare. Allora vi lascio in compagnia del brano proprio di Baloji dal suo Kinshasa Succursal, il brano è Kesho. I'm going. pris en guise d'enclos. La haine ethnique fermente dans ce terreau. On va pas attendre la cavalerie pour parler à la famille aux intempéries. Le retour des tuniques bleues. Mais tout ce qui brille n'est pas précieux. C'est pas mes enfants après eux. Changement dans le vertige. McDonald's qui dirige. Pollué mais dépendant. McDonald's qui apprend. Changement dans le vertige. McDonald's qui dirige. Pollué mais dépendant. McDonald's qui apprend. Changement, changement, changement. Changement, changement, changement. Changement, changement, changement. Monsieur Moïse. Profite la discorde. A qui profite le désordre? A qui profite la discorde? A qui profite le désordre?